Siete tutti convocati. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sera è il momento dei primi verdetti inappellabili. 800 24 00 24, prenotatevi, siamo qui fino alle 19, oppure 349 238 6666, via sms, via WhatsApp. Europei. Sì, mi riferisco agli europei. Agli europei, perché verdetti inappellabili in Formula 1 no, ci sono già stati. Una noia assoluta. Ore 21 questa sera, Francia-Svizzera, con anche un retrogusto di biscotto, eh. Poi vediamo. Poi c'è Romania-Albania e noi siamo tutti dalla parte del nostro amico De Biasi, che cerca l'impresa. Insomma, si comincia a comporre quel tabellone della seconda fase a eliminazione diretta che rischia di trasformarsi in beffa per l'Italia di Conte. Tutti vestiti d'azzurro, tutti verso una seconda fase dell'europeo che rischia di essere di quelle da far tremare le vene dei polsi. Però in attesa, noi siamo qui con la nostra magliettina, Carlo Genta, tutti non in azzurro, possiamo dirlo, Regolarmente in altro colore. In questa orgia d'azzurro oggi abbiamo cominciato a fare le prove con il rosso Ferrari. Saluto Umberto Zappelloni, ciao Umberto direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Abbiamo cominciato a fare le prove. Volevamo tutti in maglia azzurra già da oggi. Sì, tutte. Tenuta per mercoledì. La mia era lavare, direttore. Ah, perché l'hai avuta sull'altra sera, bravo. Sì, perché era tutta sudata dopo la partita contro la Svezia. Sudatissima. No, dicevamo, abbiamo fatto le prove con Rosso Ferrari e non credo sia andata benissimo, anche se poi Rosberg primo, Vettel secondo, Perez a sorpresa terzo, Raikkonen comunque che ha chiuso quarto. Però il mio giudizio, diciamo, è che intanto è stata una noia in generale il Gran Premio, ma questa non sì, è una novità. Si aspettava sicuramente un Gran Premio diverso, perché magari qualche safety car, qualche blitz al via, invece diciamo pochi sorpassi, una gara abbastanza noiosa. Baku si è fatto una bella pubblicità, adesso tutti sanno dov'è, però insomma le gare vere sono un'altra cosa. Quella di Le Mans, ad esempio, che dopo 24 ore si è conclusa nei secondi finali praticamente. Qui la Ferrari è andata meglio del previsto delle prove, dove ne aveva prese anche dalla Force India e dalla Red Bull, però insomma un secondo posto a una ventina di secondi sempre dalla Mercedes non sono quello che ci si aspetta dalla Ferrari, assolutamente. No, sono le briciole che la Mercedes lascia per strada e che la Ferrari raccoglie. Poi i due piloti della Mercedes a turno si complicano la vita o si addormentano o si, insomma, si tirano indietro, e allora la Ferrari riesce anche a fare dei secondi posti come ha fatto oggi con Vettel. Sì, perché oggi Hamilton praticamente non c'era, non c'è da ieri, perché ieri ha toppato clamorosamente le qualifiche, oggi non trovava il pulsante giusto da schiacciare sul volante ed è rimasto molto molto attardato. Anche da lui si aspettava una rimonta diversa, invece è arrivato a 9 punti da Rosberg e se ne va a 24, quindi anche per lui un weekend disastroso. E la Ferrari ha confermato di essere la seconda forza, ma di essere ancora molto molto lontana dalla Mercedes, cosa che invece in Canada era sembrata diversa. Però si è tornati su una pista dove il telaio comunque conta e la Ferrari, mancando di telaio, ha dovuto caricare molto la macchina per cercare di essere guidabile nel tratto lento del circuito, e poi sul lungo rettilineo ha perso. Sì, ha finito per pagare un po' ovunque. Questa è stata anche la domenica in cui il presidente della Ferrari Marchionne è corso a Baku e ha detto una frase che forse va interpretata tra le righe, poi arriva bene e gli ha risposto. Questo è Marchionne prima del Gran Premio. Credo che ci sia un atteggiamento che stiamo cambiando. Questo l'ho tollerato io in scuderia, adesso per gli inizi dell'anno mi sono accorto che c'era proprio quasi una rassegnazione. Il tipico ciclo della Ferrari che l'ha fatto nello scorso decennio, che è arrivato a questo punto qua, già cominciava a lavorare sulla macchina dell'anno prossimo, dicendo questa è troppo dura, ce l'andiamo a vedere il 17. Questo sta cambiando mentalmente lo sviluppo della macchina dell'anno prossimo, è un processo parallelo che non impatta su questa stagione, quindi vedrà, spero, nelle prossime gare un cambiamento anche nell'atteggiamento della scuderia, e vedrà una che si mette in gioco ogni gara. Io continuo a ripetere, la stagione è tutta da vedersi. questo Marchionne prima del Gran Premio, dopo a caldo Maurizio Arrivabene gli ha risposto così. Prima della gara abbiamo sentito il presidente Marchionne dire: i piloti ci sono, stanno facendo il loro lavoro, forse dobbiamo dargli qualcosa in più nella macchina per arrivare ancora più vicini alle Mercedes. Questa gara avvalora questa tesi? Alla grande, ma arriveremo, dai, dai. Allora, l'interpretazione buonista, Umberto Zappelloni, Carlo Genta, è: Marchionne va a Baku per sostenere la Ferrari che sta facendo un grande sforzo e sta colmando il gap. Questa è quella buonista. Poi c'è quella maligna, cioè Marchionne corre a Baku perché ha capito che in Ferrari in tanti stanno staccando la spina e cominciando a pensare al 2017 come purtroppo tradizione negli ultimi anni, e la cosa non gli piace. Diciamo che è positivo che per la prima volta in un weekend Marchionne non abbia detto andiamo a Baku per vincere e vinceremo il mondiale, quindi anche lui forse si è reso conto che per quest'anno il mondiale è qualcosa di inarrivabile. Però è anche giusto il fatto di non mollare a un terzo della stagione, non mollare, perché comunque qualche gara la si potrà vincere. Il gap va comunque cominciato a colmare quest'anno, non si può già pensare all'anno prossimo abbandonando questa stagione, quindi sotto questo profilo credo che sia corretta per una volta la scesa in campo di Marchionne, che sì, ma con chi ce l'ha quando dice ho tollerato all'inizio dell'anno questo tipo di atteggiamento, l'ho tollerato, insomma, sceglie le parole. Io non credo che ce l'abbia con Arrivabene, perché Arrivabene è un po' il suo uomo, anche se poi alla fine se le cose dovessero andare male pagherà lui, però con quei tecnici che probabilmente gli hanno raccontato le cose durante l'anno, Marchionne non è che le promesse che ha fatto all'inizio dell'anno se le ha inventate lui, evidentemente si è basato su quello che gli raccontavano i tecnici dall'interno di Maranello, che gli hanno evidentemente raccontato di una Ferrari all'altezza della Mercedes, e adesso si è un po' stufato e quindi sta cercando di mettere ancora un po' di pressione, siccome ne aveva messa poca fino adesso, sta cercando di metterne ancora un po'. Appunto, ne aveva messa poca, intanto si continua a ostentare una certa fiducia, no? Perché Marchionne dice anche in questa stagione possiamo, grosso modo, possiamo essere competitivi. La stagione è apertissima, dice. No. Aperta, aperta nel duello tra i due Mercedes, certo non per la Ferrari che, ripeto, deve accontentarsi delle briciole che i due lasciano per la strada. Si continua ad ostentare fiducia, però realisticamente il distacco che c'è, cui tu direttore facevi riferimento, tra Mercedes e Ferrari balla su quella ventina di secondi, e sappiamo bene come nella Formula 1 di oggi è difficilissimo colmare un gap che l'anno scorso era anche un po' più ampio in un'estate di lavoro. Dunque ci vuole fatalmente tempo, nonostante l'ottimismo che si continua a sparpagliare sulle piste. Sì, ci vuole tempo, e io questo ottimismo non vedo come possa quest'anno portare a un mondiale apertissimo, come diceva Marchionne, su questo profilo non c'è dubbio. Però visto che i regolamenti l'anno prossimo porteranno delle macchine molto diverse, credo che la Ferrari abbia le forze, perché le ha, per restare concentrata sui due campionati, quindi cercare di raccattare, io dico, qualche vittoria che può arrivare, non riaprire il mondiale che lo vedo impossibile, anche perché la Mercedes se non vince uno vince quell'altro, però raccattare qualche vittoria quest'anno, quindi cercare di fare qualcosa di meglio delle tre vittorie dell'anno scorso che avevano dato un accenno di risveglio, e poi però intanto lavorare sulla macchina dell'anno prossimo che cambierà profondamente e che dovrebbe essere finalmente la macchina che porterebbe a un riavvicinamento alla Mercedes. Sì, può aiutare a colmare il gap che oggi appare ancora incolmabile. Abbiamo ancora un minuto prima del traffico. Io voglio chiudere con il Gran Premio dei Team Radio, perché oggi ne abbiamo veramente sentiti tanti interessanti. Quello secondo me che a essere maligni accende un po' una spia è quello di Vettel. Ottavo giro, Vettel è secondo alle spalle di Rosberg, il muretto gli dice: vieni dentro a cambiare le gomme. Lui dice: are you sure? Cioè, siete sicuri? E sta fuori, e ha ragione lui, perché in realtà i tempi restano buoni, poi probabilmente sarebbe arrivato secondo uguale perché Rosberg era assolutamente inavvicinabile. Però ho l'impressione che non ci sia un rapporto di estrema fiducia dopo gli ultimi fatti tra il muretto e Vettel, o no? Diciamo che dopo quello che è capitato in Canada, e non solo in Canada, Vettel incomincia a ragionare un po' di testa sua. Però sul fatto che oggi il muretto Ferrari non aveva tutti i torti, perché se tu vedi la stessa tattica è stata usata con Kimi, e Kimi poi era davanti a Vettel. È vero che in quel momento lui sarebbe rientrato in pista molto dietro e nel traffico, però la stessa tattica usata con Raikkonen, che era molto dietro, ha fatto tornare Vettel poi in pista dietro a Kimi. Sì, però direttore, è preoccupante che un pilota dopo... è preoccupante che un pilota si metta a fare di testa sua è molto preoccupante. Quindi anche questo, il problema è che Vettel in questo momento sta dando alla Ferrari molto di più di quello che la Ferrari ha dato a lui, e quindi si tende a dargli sempre ragione. Però sono cose, la scelta però nella squadra è sempre stata del pilota. Sì, ma io la butto lì, non è che si sta trasformando un po' in Alonso, o meglio, non c'è quel rischio lì, cioè Alonso a un certo punto non si fidava più della Ferrari. Mentre l'anno scorso c'era tutt'altro clima, ci ricordiamo i messaggi d'amore tra Ferrari e Bottas. Che il clima sia completamente diverso e che questo rischio non lo corriamo. Due domande e poi ti salutiamo. 349-238-6666. C'è chi dice: Marchionne scarica troppa pressione, genera ansia, non sprona i collaboratori con le sue dichiarazioni. Anche questa. Beh, lo abbiamo sicuramente detto che Marchionne ha creato troppa pressione attorno alla Ferrari. È un metodo che evidentemente in azienda funziona, nello sport non ancora, però la Formula 1 non è uno sport un po' diverso ed è anche molto diverso dall'azienda, quindi forse è una tattica che nello sport non paga. Certo, in Fiat ha funzionato. E poi come ha fatto allora la Red Bull a ridurre il gap dalla Ferrari, o è solo un caso? Ma la Red Bull ha sicuramente migliorato molto il telaio, il motore ha ancora dei problemi, non abbiamo visto qui, però il telaio della Red Bull da anni, grazie a Newey e alla sua scuola, è migliore di quello Ferrari, e si è confermato anche quest'anno. Grazie direttore. Grazie a voi, direttore. Buon pomeriggio. Grazie a Umberto Zappelloni. 800 24 00 24, apriamo le convocazioni anche sulla nazionale, ci vestiamo d'azzurro, vogliamo anche sapere qual è il vostro podio, perché oggi inizia la terza e decisiva giornata dei gironi, ma insomma alle spalle abbiamo 180 minuti di delusioni, conferme e qualche sorpresa. Vi aspettiamo. 800 24 00 24. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. E allora andiamo a Montpellier, a casa dell'Italia di Conte, vestita d'azzurro. Saluto il nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Giovanni, ciao Carlo, un saluto a tutti. Beh, anche come siete vestiti? Ospite. Perché abbiamo visto immagini arrivare da Montpellier di giornalisti in maglia azzurra. Sarà contento. Sei azzurro anche tu. Allora, io la mia maglia azzurra inevitabilmente c'è stato un passaggio obbligato in lavatrice, perché per motivi ovvi, mentre Alessandro Bocci, del Corriere della Sera, sì, inviato, che è qui, lui è rigorosamente vestito in maglia azzurra. E c'ha anche, adesso lo sto toccando, spero che non per scaramanzia adesso non mi bacchetti, ma sto toccando anche il suo braccialetto di plastica azzurro, quindi è perfettamente in tinta e anche... Ma la maglia quella della nazionale, non proprio, allungare le mani. No, perché non è della nazionale, perché Conte ha dato il permesso di vestire anche, non so lo sponsor come l'ha presa, perché ha detto, visto anche non la maglia ufficiale, no, cioè, insomma, giustamente non è che può imporre di mettere la maglietta che costa un po' di sghieri. Bontà sua. Quindi insomma, però Alessandro Bocci è perfettamente in tinta, quindi... Alessandro, insomma, quindi sei ligio e allineato. È stato casuale, sì. Confesso, stamattina è stato casuale, domani non sarò già più azzurro, però tanto per oggi lo sono. Sai, con questa chiamata alle armi cromatiche, è qualcosa di cui si discute in Italia. Allora, prima di discutere della chiamata alle armi cromatiche, mi date il bollettino di oggi? Allora, direi facciamo un attimo il bollettino medico, visto che poi Castellacci, il professore, non parla più ormai, quindi lo intuiamo dagli scarni. Ecco, fumogena, però insomma, cioè, quella che sembra una piccola influenza è diventata qualche lineetta di febbre per Buffon, ma roba da poco, comunque oggi riposo precauzionale. Quello che invece preoccupa di più, in chiave soprattutto ottavi di finale, perché quella con l'Irlanda diventerà un vernissage per le seconde linee, è l'adduttore destro di Candreva, che viene monitorato giorno per giorno. Vuol dire, proviamo a decriptare, Alessandro, vuol dire che c'è uno stiramentino e che il recupero per gli ottavi è complicato? Sbaglio di molto se interpreto così? No, secondo me è così, cioè ho colto ieri sera quando lo staff è venuto qua insieme a Conte e al presidente Tavecchio a vedere il concerto di Alex Britti, ho notato una certa preoccupazione, più di quella che traspare dal comunicato asettico che hanno inviato ieri all'ora di pranzo. Evidentemente, al di là del fatto che Candreva starà fermo questi due giorni e poi pian pianino recupererà, il problema muscolare all'adduttore destro è una cosa che, stiamo parlando sempre in vista dell'ottavo di finale, crea ansia agli azzurri, e se lo crea allo staff di sicuro la creerà anche a Conte. Però sono stati bravi comunque gli azzurri, vincendo la partita contro la Svezia, qualificandosi in anticipo, anche a trovare tempo e spazio per provare soluzioni alternative, cosa che avverrà in maniera fisiologica tra ammoniti diffidati e un ovvio turnover. Abbiamo la partita con l'Irlanda a disposizione per trovare quello che serve al posto di Candreva. Direi che è una giusta osservazione quella che fai, Carlo, perché comunque lì può giocare Florenzi, lì giocherà con l'Irlanda molto probabilmente il Sharawi. Quello che dispiace è che comunque i piedi di Candreva non è che li trovi molto facilmente, mancando già Barchisio e Verratti avrebbero fatto comodo. Ora non diamolo per perso, però è chiaro che salta gli allenamenti, fa un lavoro specifico e poi con i muscoli bisogna starci sempre cauti. Ecco, a proposito di soluzioni alternative, Alessandro, potrebbero essere le due che abbiamo citato oppure? Ma io penso che il turnover sarà totale. Io mi immagino un'Italia nuova per 9 undicesimi, tra gli 8 e i 10 undicesimi, cioè quindi una rivoluzione pressoché totale, questo perché diciamo i cosiddetti titolarissimi sono già concentrati sull'ottavo di finale, hanno 9 giorni che oggi sono diventati 8, ma insomma considerando ieri 9 giorni a disposizione per preparare una partita. Tra l'altro ti chiedo, scusa, siamo sicuri che sarà contro la Croazia? Perché poi questa Repubblica Ceca forse... Speriamo che non sia contro la Croazia, nel senso che la Croazia è una squadra noiostica, speriamo che sia la Repubblica Ceca, poi comunque sarà quel che sarà. Conte non mi sembra preoccupato da chi incontra, dice sempre guardiamo noi stessi. Invece io sono più, non preoccupato, ma sono curioso di vedere come la squadra reagirà, perché è vero che 8 giorni di tempo favoriscono il recupero dopo questo grosso stress fisico nelle prime due partite, ma è anche vero che sono un lasso di tempo così ampio, insolito in una manifestazione così, che non vorrei che un po' si svanisse l'effetto magico che un po' ci circonda in questa fase, che ha permesso all'Italia una partenza sprint. Sì, c'è il rischio che faccia un po' da calmante dell'entusiasmo che circonda la nazionale, però anche a della grinta, non anche solo della dell'entusiasmo grinta. Anche se credo che da questo punto di vista Conte sia una garanzia, ce lo aveva giurato anche avvicinandoci al debutto mondiale, poi è stato di parola. No, l'interesse invece è capire, al di là dell'Irlanda, se possiamo immaginarci di vedere nella seconda fase un'Italia anche diversa dal 3-5-2, palla Bonucci, lancio, gioco verticale, insomma, quello che ha sorpreso il Belgio, ma magari potrebbe perdere un po' l'effetto sorpresa. Ecco, tu che dici, Alessandro? Effettivamente potremmo allontanarci da questo canovaccio? Ma io vi confesso che se recupera Candreva credo che la formazione contro contro la Croazia, diciamo così, per capirci. O chi sarà la stessa dell'esordio. Anzi, penso che uscirà Florenzi e entrerà Darmian. Se Darmian, che secondo me giocherà la seconda, sta bene, farà una buona partita, la formazione dovrebbe essere quella. Credo che contro l'Irlanda giocheranno in attacco Zaza Immobile, proprio perché poi contro la Croazia nell'ottavo giocherà, torneranno a giocare Pelle ed Er. Magari mi sbaglio, però. Quanto è arrabbiato Insigne secondo te? Insigne... Perché abbiamo visto una faccetta l'altro giorno in Mixon. Insigne non credo sia contento, è un protagonista a Napoli e qui non voglio dire che è il 23esimo, no, perché c'è il terzo portiere, sì. Ma sicuramente è dopo il 20esimo posto e quindi... È il 22esimo di 21, rischia di diventare. Sì, o il 21esimo di 23. Il Borini del 2012. Sì, oggi ci ha detto parole in conferenza stampa che Sirico è il più allegro, il più burlone, quindi forse vale addirittura gioca di più. Sì, quindi vale. Buffone ammonito e poi c'ha da 2 giorni la febbre. Okay. Comunque, Insigne è entrato per miracolo, c'è stato uno degli ultimi ballottaggi che Conte ha risolto, non mi sembra un giocatore nelle grazie di Conte. Poi ricordatevi che tutto è cominciato a ottobre, quando lui ha saltato per un doloretto, come lo definiscono dentro lo staff della nazionale, per tornare a Napoli. È tornato a Napoli alla ripresa del campionato, ha giocato indiavolato contro la Fiorentina segnando anche un gol, e quindi secondo me un po' lì Conte un po' se l'è legata al dito, cioè un po' come dire, non è proprio al 100%. Sì, poi Conte è uno morbido, uno di carattere, dei uno che, di Conte. Ecco, è uno che dimentica. Ieri, tra l'altro, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, ricordando, come tradizione di tutti i CT, che l'Italia frega qualcuno per un mese ogni due anni. Più o meno ha detto questo, l'aveva già detto Prandelli. Ma lo dicono tutti gli allenatori, ecco. Però aveva un significato particolare, credo, ieri, detto da Conte, e sappiamo anche le note vicende. Prima di salutarvi, se mi rispondete a due domande. La prima, una curiosità che chiedono da casa: chi sarà il capitano mercoledì contro l'Irlanda? Così rispondiamo anche a un'altra amica che ci chiedeva quando giocherà la prossima partita. Gioca mercoledì alle 21, prego. Che dici, Barzagli, Ale? Io credo che sarà quello con più presenze. Ora bisognerebbe capire, ora non c'ho sotto mano. Sì, non abbiamo la tabellina sotto però mano. Però la formazione grosso modo sarà l'unico titolare che penso possa giocare è Barzagli, perché tre difensori non li può cambiare, quindi se prevale la scelta di preservare i giocatori col cartellino giallo, quindi considerando che sono ammoniti sia Bonucci che Chiellini, dovrebbe giocare Barzagli. Se invece fanno un conto che Barzagli con gli anni e con tutti gli infortuni che ha avuto merita il riposo, allora può darsi che giochi Bonucci. In ogni caso credo che possa essere Barzagli, perché Zaza e Immobile hanno poche presenze, pure a centrocampo, non molte, sembra Thiago Motta, Scuraro, sì, rischiano tra De Sciglio, Bernardeschi, Ciarawi. Sì, penso possa essere Barzagli. Sì, possa essere Barzagli. L'altra, qualcuno chiede a casa se non sarebbe meglio dare continuità a Deder adesso che si è ritrovato. Continuità a farlo giocare, provare a non spegnere questa scintilla che si è accesa. Più di così. Ah, tu dici in vista di un turnover contro l'Irlanda. Esatto. Ma non credo. Poi magari sentiamo l'esatto, dico, magari poi la mezz'oretta ci scappa qualcuno della panchina, però insomma, qua bisogna salvare le gambe, perché comunque, no? Tu che dici, Al? No, la stessa considerazione che faceva il nostro amico a casa è quella che faccio io a carattere generale, vale per Eder ma vale anche per gli altri. Non so se 9 giorni rischiano di svanire l'effetto magico, però è sicuramente un rischio che Conte ha deciso di correre. Devo dire, visto come li allena e quello che gli ha detto, che gli ripete martellante ossessivamente ogni giorno, il rischio che gli azzurri allentino la presa mi sembra difficile. Diciamo che il pericolo Mangaratiba è lontano quest'anno. Sì, ma lì era una squadra diversa, una squadra che non aveva purtroppo un'anima, lì forse neanche se l'avesse allenata chissà chi. Lì invece questa è una squadra che è umile, non è tecnicamente molto forte, non c'è un giocatore probabilmente, cioè il giocatore migliore, così ora rischio magari di far arrabbiare qualcuno, ma mi sembra così proprio Candreva, di maggiore qualità, a parte l'unica nostra grande stella in porta è Buffon, quindi siamo una squadra povera di talento, ma forse come squadra la squadra più unita, più tosta, più sì, solida, come ha detto oggi, sicuramente proprio un'altra pasta. Anche perché il talento di Insigne lasciato in panchina non è che può seminare fiori, cioè Insigne è stato, io l'ho detto un miliardo di volte, il miglior giocatore italiano almeno per buona parte della stagione, è uno dei giocatori di maggiore talento, è uno di quelli che bravi a saltare l'uomo, che ha determinate caratteristiche, se lo lasci seduti in panchina al massimo può fare la bella statuina. No, tra l'altro, ecco, a chiusare, proprio anche Parolo oggi in conferenza stampa l'ha ribadito, ha detto, dice, guardate, questa è una squadra che è fatta così, di una cosa potete star certi, che non si esce dal campo se non si è dato tutto, se non si è dato il 110%, quindi potremo pure perdere le partite, capiterà di perderle, ma state sicuri che il 110% lo diamo. Ti pare poco, no? C'è anche un pizzico di retorica in queste cose, sì, come nella maglia azzurra che voi a Montpellier indossate. Io adesso mi faccio attacco, rubo questa di Bocci, lo deludo qui, gli rubo la maglia, perché è troppo bella questa azzurra che c'ha, guarda, non riesco a aspettare. Domani la vendo, Fai del merchandising, Alessandro, fai del merchandising. Altro che sponsor della nazionale. Vi salutiamo, grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Buon pomeriggio a voi, grazie a Dario Ricci e ad Alessandro Bocci, inviato del Corriere della Sera. 800240024. Vi stiamo chiedendo anche il vostro podio. C'è un amico che scrive Italia, Spagna, Croazia. Secondo me ne ha presa una e mezza, non di più. Nel podio delle prime due giornate, io continuo a mettere in testa la Germania. Anche se io lo so, voi dite, sta deludendo, ha problemi in difesa, poteva perdere con la Polonia. La finale, secondo me, rischia di essere Germania-Spagna. La finale, Germania-Spagna un'altra volta. 800240024. oppure 349-238-6666 via sms, via whatsapp. Vi aspettiamo tra due minuti, non di più. Cerchiamo di dare soddisfazioni, penso che comunque il tifoso italiano sia contento almeno della voglia che ci mettono questi ragazzi, almeno io sono molto contento perché questi ragazzi amano la maglia, amano la nazionale, si sentono rappresentanti del paese e siamo orgogliosi tutti, ecco. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Tutti convocati. Stiamo vivendo sicuramente un sogno perché dopo due partite penso che nessuno si immaginava una nostra qualificazione già diretta agli ottavi. Per noi era un obiettivo, ci siamo già dopo solo due partite, ma sono contento, ripeto, soprattutto per i ragazzi perché lo meritano per quello che fanno, per quello che ci mettono e bravi anche a soffrire. Dobbiamo metterci in testa che dobbiamo arrivare dove meritiamo, senza avere recriminazioni da fare alla fine del torneo. Ecco, quindi non lo so se possono essere ottavi di finale, adesso siamo arrivati a ottavi di finale, ce li giochiamo. Se possono essere quarti, se può essere semifinale, finale o uscire direttamente agli ottavi. L'importante è che qualunque cosa accadrà sia quella che meritiamo, questa è la cosa più importante. Abbiamo dimostrato a tanti che questa squadra ha i coglioni. Insomma, i duri non hanno solo due cuori, hanno anche due di qualcos'altro, Pier. Lo sappiamo. Hanno due maglie, una azzurra da sfoggiare adesso. Da qui. Sei con la maglia azzurra o no, Pier? Io in questo momento no. Però sono con la camicia bianca, però... Ecco. Aderisco all'appello, Sì, noi no, noi no. Perché? Ma perché, insomma. Aderisce all'appello a vestire la maglia azzurra. Perché no? Ma scusate, perché? C'è un po' di retorica dietro queste cose. Noi siamo, siamo in piedi ad applaudire la nazionale di Conte che sta facendo una cosa grandissima, però sbagliano, sbagliano tutti. Ma io, perché da ognuno si veste come gli pare, ci mancherebbe altro che fosse un'imposizione, però. Ma sai che lo chiediamo anche a casa? È venuta fuori, lo chiediamo anche a casa. 800 24 00 24. Per fare Italia, cercherò di mettere qualcosa di tutto. Come vi vestite mercoledì sera per Italia-Irlanda? E poi portiamoci avanti, perché avete tempo ancora di più per prepararvi. Lunedì 27 giugno, ore 18 per l'ottavo di finale. Come vi vestite? Con la maglia azzurra o no? Tantissimo nelle nostre tradizioni, se non in situazioni particolari. Questa certamente può essere una situazione particolare, quella di un europeo. Intanto incassiamo il primo posto, anche se... Ma noi siamo belli anche perché siamo disordinati. Sì. Anche se Cruciani l'altro giorno abbiamo vissuto in parte insieme Italia-Svezia, facciamo un tifo indemoniato per il pareggio, per lo 0-0, e se lo stesso Pardo diceva, beh, risultato che non ci fa schifo, considerato quello che ci aspetta. Però io credo anche che, visti i risultati, Pierluigi, ancora nulla sia scritto, cioè non è detto che noi si debba per forza salire il calvario di quei tre match difficilissimi. Sì, è tutto molto da decidere, innanzitutto perché la Croazia è la favorita per il secondo posto nel girone come prossimo avversario negli ottavi, però non è escluso che possa essere la Spagna, sarebbe una tragedia, ma anche la Repubblica Ceca sarebbe una bella opportunità. Non è facile, però non è neanche impossibile. Poi io sono dell'idea che comunque aver vinto contro la Svezia ci dà la possibilità di impostare il lavoro in maniera un pochino più tranquilla, un pochino più distesa, quindi io penso che dei vantaggi a Conte li dia dall'esterno può sembrare un problema il fatto che praticamente per 10 giorni non hai partite importanti. Sì, appunto, perché questo si diceva, non si rischia di perdere, lo dicevamo prima, non si rischia di perdere la magia. No? Secondo me con Conte no, non si rischia, anzi può essere l'occasione per rifiatare, per fare degli esperimenti, per dare un'opportunità magari a chi ha giocato meno, non ha giocato per niente. Cioè, secondo me può essere strategicamente un vantaggio quello di avere questa terza partita per sperimentare, per far riposare le persone, per non la vedo drammaticamente. Penso che Conte sarebbe d'accordo con me, credo che sia un'opportunità essersi guadagnati questa terza partita. Questo secondo me sì, questo è indubitabile. Quel tentativo eroico di Bonucci e Chiellini di farsi ammonire e quindi squalificare da romanissimo con la ammonizione a Buffon negli ultimi istanti di gara. Ma io sono è stato un po' fantozziano, però ci ha anche riportato a una dimensione più umana che piace. Poi meno male che c'è di mezzo il cuscinetto con l'Irlanda che ci consente di evitare problemi almeno per gli ottavi di finale. C'è un amico che scrive: Peppe, ai mondiali contro l'Inghilterra Darmian giocò a sinistra, fece il fenomeno, poi fu spostato a destra e perdemmo tutto. Perché non può giocare a destra con Candreva a sinistra? Si può fare, a parte che Candreva in questo momento c'è il problema che non si sa se ci sarà per gli ottavi di finale, perché quello è il tema, ma si può fare, così come si può immaginare, anche se Dario Ricci, Alessandro Bocci, Pier ci dicevano che non è probabile, si può anche immaginare un'Italia un po' diversa, non tanto con l'Irlanda, immagino dall'ottavo di finale in poi, dal 3-5-2 che abbiamo visto contro Belgio e Svezia. Sì, no, ma sicuramente io. Però ti ripeto, bisogna anche sempre ricordarsi il punto di partenza. Il punto di partenza era quello di una nazionale che arrivava come se fosse, no, con le canzoni degli amici, gli amanti bomber, autogol, tutto in preda al pessimismo. E dopo due partite abbiamo dimostrato che ci siamo, che siamo tosti. Italia-Svezia non è stata una bella partita. Adesso non è che come è stato il lampo di Eder o di Eder, dobbiamo cancellare quella sensazione di povertà che abbiamo avuto negli 88 minuti precedenti. Però è stata comunque una partita nella quale non abbiamo rischiato, abbiamo concesso una sola palla gol agli avversari e in generale nelle prime due partite pochissime nazionali, secondo me, sarebbe interessante fare un calcolo preciso, in due partite hanno concesso così poche palle gol come noi. E questo quindi è un segno della nostra qualità difensiva. Questa è la conferma che dietro siamo forti. Aspetta, Pier, saluto Dino Zoff. Dino, buonasera. Buonasera. È la conferma che questa è una nazionale che dietro è a, possiamo dirlo alla Giaccherini, alle palle. È una bella nazionale italiana. Ma non è questione di palle o meno, è che una difesa forte l'ha dimostrata con la Juventus per 5 anni. Mi sembra. Io sono sempre stato fiducioso, appunto partendo da questo, e quindi tanto noi davanti qualche cosa lo tiriamo fuori sempre, magari insomma la partita con la Svezia era una 0-0 scritto, però c'era una squadra che poteva far gol, io l'ho detto a degli amici tra il primo e il secondo tempo, è l'Italia, sotto questo aspetto non c'è, probabilmente le esagerazioni nostre magari adesso si esagera dall'altra parte, prima eravamo dei profughi. E direi che hai una buona squadra organizzata, grande difesa, possiamo giocarcela con tutti. Ma lei da CT le è mai capitato di fare i calcoli? Perché poi si parla tanto anche di questo, in questo ribaltamento, cioè siamo partiti che non ci considerava nessuno, oggi discutiamo sul fatto che arrivare primi sia o no un problema. O meglio, e poi aggiungendo, Conte fa bene a non fare calcoli, ad aver evitato accuratamente di fare calcoli, secondo me sì. Ma io non capisco che calcoli deve fare uno. Cerca di fare il massimo sempre, poi si vedrà alla fine cosa c'è. Fare i calcoli bisogna avere freddezza, poi nel calcio manca un po' di cuore, con la freddezza non si va molto lontano. Quindi non vedo che calcoli poi uno debba fare, va in campo per fare il meglio che può, non ci sono santi, e poi si vedrà, ecco, poi fare calcoli è pericolosissimo, uno dice ma vorrei incontrare quella squadra perché, per come, eccetera, e va a finire al contrario, ecco, io sono sempre stato così lasciato al destino e quello che può succedere. È ancora convinto, mi pare di aver letto da qualche parte, che quest'Italia sia un'Italia a misura di almeno semifinale? No, io credo che possa arrivare dalle prime quattro, poi da lì un altro paio di maniche, però insomma non vedo che, penso che possiamo giocarcela con tutti noi, perché non c'era equilibrio prima, c'è adesso, grandi che hanno grandi fantasie, ce ne poche squadre, vedo su tutto di tic e tac eccetera, a parte la Spagna che ha fatto qualcosa di più, il resto anche il Belgio che voleva fare tic e tac ha beccato, ha giocato un altro giorno in un'altra maniera, ha fatto 3 gol in contropiede. Il calcio è più semplice di quello che lo disegnano, Piero, ogni tanto. Sì, assolutamente, e questa ha ragione insomma il mister, perché io penso veramente che questo sia un europeo di enorme equilibrio, e l'Italia è parte di questo equilibrio, nel senso che noi siamo una squadra che può faticare con tutti. La Svezia è sicuramente una delle squadre meno forti di questo europeo ed era una partita da 0-0, al tempo stesso siamo una squadra che può fare il grande colpo come ha dimostrato contro il Belgio, quindi queste due partite dimostrano in maniera proprio plastica il fatto che sia difficilissimo fare un pronostico, perché non ci prendiamo in giro, noi potremmo uscire dagli ottavi per un episodio sfortunato perché magari sbagliamo partita, e al tempo stesso siamo, però non partiamo veramente battuti con nessuno, nemmeno con la Francia, forse con la Spagna, perché per me la Spagna, se prende il suo ritmo, rimane la squadra. Sì, la Germania 2 mesi fa ce ne ha dati 4. E anche la Germania. Ricordiamolo, sì, perché poi anche il Belgio se ne ha dati 3. Sì, le amichevoli sono un'altra cosa. Poi Dino, insomma, conosce il calcio italiano meglio di tutti noi. Sa che proprio se c'è una caratteristica degli italiani è proprio quella di fregarsene poco delle amichevoli, ma non per cattiveria, proprio perché non ci viene, non ce l'abbiamo, no? Dino? Ne ha famo, facciamo giocare. No, piuttosto volevo chiedere a Dino Zoff se è pura casualità che ci siano così tanti gol nei finali di partita. Mai ne abbiamo visti così tanti come in questo europeo. È un caso o c'è qualche ragione? Forse un caso proprio no, ecco, perché sono le squadre che cercano fino alla fine, magari sono superiori in campo in quel momento, il gol arriva quando gli altri magari sono un po' stanchi o meno svegli, ecco, questo probabilmente è questo, poi dopo ci vuole anche un po' di fortuna, questo è vero, però credo che sia interessante il fatto che le squadre ci provino fino alla fine. Sì, c'è grande equilibrio, ci stiamo anche abbastanza divertendo, qualche partita sotto il livello minimo di quello che ci si può attendere da un europeo, ma complessivamente ci stiamo divertendo. Chiedo un'ultima cosa di Nozov, siamo in ritardo sul traffico, ma poi lo lanciamo. Conte, con questo suo modo di difendere le sue scelte, le sue idee, e poi anche premiato, Giaccherini e Deder, ad esempio, sono due delle convocazioni più contestate in assoluto, le ricorda un po' Berzot e Lippi? Beh, no, non confondiamo. No, no, ma nel modo di tenere dritta la barra. Però, dai, se un allenatore non è convinto delle sue scelte, se va con gli umori dell'ambiente o del pubblico, che allenatore è. Le cose sono semplici. Uno deve avere le sue idee, sperando che siano quelle giuste. Conte le sta dimostrando, come l'ha dimostrato Berzot. Grazie Zoff, grazie Dino. Grazie Dino Zoff. Guarda, Pier, ti leggo un messaggio che è arrivato adesso. La Germania fa ridere, se vinciamo il 27 siamo in finale. Alberto da Ferrara. C'è anche la Francia in mezzo. Cresce sugli alberi qui in Italia, Pierluigi. Sì. Io penso, io non ero pessimista prima, sapete. Però non si può esagerare al contrario. Non sono ottimista, ma perché siamo appesi a un filo, ragazzi. Noi non abbiamo una squadra che scende in campo e domina. La verità è questa, lo sa benissimo pure Conte. Noi non abbiamo questa squadra qui. E sarebbe paradossale che fosse così, visto che ci siamo detti fino a 5 giorni fa che stiamo attraversando una delle più grandi crisi generazionali, quindi... Quindi evidentemente non è che adesso improvvisamente Giaccherini sia diventato Garriccia o Pelé sia diventato Pelé. Chiaramente siamo tosti, abbiamo un bel allenatore, bravo, che ci ha dato un'inquadrata, che ha fatto delle scelte magari che non tutti abbiamo condiviso, ma alla fine, se penso a Jorginho e Bonaventura lasciati a casa, che sono pure due giocatori che io stimo e che mi piacciono, probabilmente la scelta era... ha pagato però quella di Conte. Ha pagato, sì, ad oggi ha pagato quella di Conte. Discutibile, ma ha pagato quella. Piero, aspetta, perché siamo in ritardo chilometrico sul traffico. Quindi lo recuperiamo. Traffico, poi torniamo a 800 24 00 24. C'è Paolo da Caserta, ma ne chiamiamo anche altri, perché il tema maglia azzurra o no sta dividendo. C'è chi dice che siamo non patriottici. Adesso, dopo ve lo leggo. Allora, dopo ve lo leggo. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Speriamo di fare il primo posto, perché è teoricamente più semplice, dopo non si sa, qualsiasi squadra è dura agli europei, e niente, speriamo non vederli agli italiani. Vedete che c'è chi li fa i calcoli, questo era Morata, ha detto io l'Italia non la voglio trovare, quindi faccio i calcoli per evitare l'accoppiamento con l'Italia. La Spagna deve battere la Croazia oppure pareggiare. Anche lì potrebbe uscire un biscottino mica male. Sì. Spagna-Croazia con un punto anche passano entrambe. Anche se ti devo dire che comunque questa formula che promuove... A me non dispiace. No, a me piace molto, perché non svuota di significato le ultime partite dei gironi. Spesso stiamo... Anche Romania-Albania di stasera è una partita vera, una finale. Spesso stiamo alle ultime partite dei gironi in cui tutto è scritto, tutto è deciso, sono delle specie di amichevoli che ti tolgono ogni libido. In questo caso invece... quasi tutte le partite hanno un senso. Sì, anche perché col fatto dei terzi posti, appunto, che non si capisce bene. Appunto. È anche vero che, insomma, dopo 18 giorni di partite, 36 partite, eliminare 8 squadre su 24 fa abbastanza abbastanza ridere, però va bene, è divertente. Sì, sì. Più si gioca, io più mi diverto. Meglio così. Tra l'altro, gli amici spagnoli ricordano che nel 2012 Spagna-Croazia, altro potenziale biscotto che doveva eliminarci, non fu consumato. La stessa cosa. E noi giocavamo, tra l'altro, curiosamente, giocavamo contro l'Irlanda, sì. C'era anche questo tipo di situazione. La Spagna potrebbe farci un grande regalo, perché la Repubblica Ceca potrebbe anche arrivare in punta, secondo me. Ecco, se la Repubblica Ceca batte la Turchia e la Spagna batte la Croazia, andiamo a giocare con la Repubblica Ceca. Sì, bisogna vedere la differenza reti, ma la Repubblica Ceca potrebbe essere messa meglio, perché comunque ha perso solo di un gol contro la Spagna, quindi diciamo che, e la Croazia ha vinto solo di un gol contro la Turchia, quindi diciamo che... Bisogna vedere la differenza reti. Però... Sì, ma noi tifiamo tutti per Repubblica Ceca e Spagna, c'è poco da fare. Certo, dai, abbiamo 1-0 della Spagna, 1-0 Repubblica Ceca. Paolo, Stefano e Dario, Paolo da Caserta. Dai. Buonasera a te. Con o senza maglia azzurra? Guardi, non me lo chieda, perché essendo del sud preferirei non indossarla, onestamente. Come trattano poi del campionato di Serie A la squadra del Napoli in tutti gli stati d'Italia, non so perché, solo per il Napoli, trattano male, io non la indosserei. Insomma, non è che a Napoli trattano bene gli altri, però dai, non apriamo, vi prego, questo tema. Non è che la Juventus venga trattata con guanti di velluto. Per fare un nome. Forza, Paolo. Volevo solo porre un interrogativo, semmai un consiglio. L'allenatore dell'Italia c'ha due bellissime coppie da poter schierare, magari un primo tempo e il secondo tempo. Insigne Immobile e Shaarawy Zaza, perché non lo fa? Insigne Immobile ed e il Shaarawy Zaza, perché il Shaarawy lo usa da esterno. Il Shaarawy lo usa da esterno. Vabbè, potrebbe cambiare un po' modulo, no? E poi significa tener fuori Eder, che con la Svezia a gol a parte è stato tra i migliori, e Pellè, che per Conte è sempre stato... Però è un'ipotesi affascinante, Pier. Insigne Immobile si ritrovano una coppia del Pescara. Certo, no, infatti coppia collaudata Insigne Immobile. Aspetta che ti facciamo rispondere da Pier. Io penso che questa sarebbe la partita ideale, vista la situazione, per provare un 3-4-3 e per provare appunto due fra Bernardeschi, El Shaarawy e Insigne dal primo minuto. Penso che sarebbe un'opportunità che potrebbe... rimescolare un po' le carte e potrebbe recuperare alla causa, o quantomeno tenere positivamente sulla corda una serie di giocatori che potranno essere utili in futuro. Quindi io penso che Conte ci stia pensando, non cambierà certamente la struttura della difesa, però insomma se non ti prendi qualche rischio tattico, qualche esperimento per rivitalizzare i tuoi attaccanti in una partita dove puoi anche perdere contro una squadra sicuramente inferiore, quando lo fai. Sì. Sul discorso di prima invece volevo mettere, stava il discorso lì, ma non tanto sul Napoli o non Napoli, cioè secondo me tornando al discorso della maglia, quando io vedo quei muri arancioni degli olandesi o gialli degli svedesi o verdi degli irlandesi, eccetera, e penso veramente a una caratteristica degli italiani. Purtroppo, l'abbiamo nel DNA, noi siamo andati avanti per secoli, carità, uguale, però, così. Però io ti dico una cosa, che in Italia secondo me c'è troppa rivalità e c'è troppo campanilismo fra un posto e l'altro. Se noi dobbiamo uscire, ci mettiamo la maglia azzurra, ci sta quello che se la mette azzurro chiaro, quell'altro se la mette azzurro scuro, quella se la mette a maniche lunghe, cioè abbiamo questa, è anche il bello degli italiani, per carità, è anche parte del nostro talento. Bene, abbiamo avuto la prova provata con la telefonata precedente, no? Sì. Per come viene trattato il... ragazzi, però scusate adesso voglio fare un discorso pro Napoli, pro partenopeo, cioè che Napoli sia spesso oggetto di cori e di situazioni, non soltanto Napoli, ma a Napoli in maniera particolare, questo è evidente, no? Allora sì, uno... Pier, però se ci mettiamo a fare la classifica degli idioti, voglio dire, dentro la classifica ci non stanno tutti, adesso, perché sennò raccontiamo una verità che va bene per i napoletani, non va bene per gli altri, poi magari ne raccontiamo una che va bene per gli juventini, non va bene per quelli della Roma, e tanto sono temi di cui purtroppo discutiamo tutto l'inverno, e io trovo triste che poi questa cosa diventi il tifo contro storico, perché stiamo parlando di cose da decenni, alla nazionale italiana, altro che maglia azzurra o no, c'è chi ci dice la retorica è tutta vostra, siate italiani, si può esserlo anche vestendosi di azzurro. Matteo da Modena, aspetta, facciamo così, Stefano da Brescia, Stefano. Eccomi. Allora, ti devo chiedere qualche minuto di pazienza, ti richiamiamo. Partiamo dopo il GR delle 18 da te, da Dario da Monza, dalle vostre maglie azzurre o del colore che volete voi, con Pierluigi Pardo, che resta con noi. 800 24 00 24, torniamo subito. Finisce qua, senza recupero, primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Tutti convocati. Vediamo tutti Buffon, manca solo Santon. Quando mi han detto i convocati ho buttato l'iPhone. Ho già fatto i mille pezzi, la gazzetta dello sport. Meglio se spengo la TV e mi registro su YouPorn. Sinceramente un po' di invidia ieri o l'altra partita l'abbiamo provata vedendo tutte le altre squadre, ecco, tutte con un colore, con questa macchia di colore. Io penso che l'azzurro è un colore bellissimo, un colore di forza. Penso che indossai la maglia e il colore della maglia del proprio paese sia motivo di orgoglio e soddisfazione a prescindere dal risultato. Ora preghiamo che sti bomber qui ci portino in fondo. Non si stava tanto male da campioni del mondo. Questa è un'idea del nostro vulcanico mister, che identifica nell'azzurro il nostro brand. Noi portiamo in giro un'importante immagine della nazione. Vedere uno stadio con un sacco di colori diversi senza un'identità dell'azzurro ci faceva anche restare un po' perplessi. E ancora un'altra estate arriverà e segneranno ed eri insieme. A far sentire la presenza, la passione e l'amore nei confronti di questa maglia, che a volte viene bistrattata un po' troppo. In che senso viene bistrattata, Conte? No, in generale, nel senso che la nazionale è importante, penso che in queste manifestazioni così torni l'amore e torni l'importanza di questa maglia. Io ringrazio Claudia Schiattone, Paolo Corleone e Gianmarco Ferronato per queste e per le altre copertine di oggi. Pier, ci sei? Sì, ci sono. Salutiamo Stefano da Brescia, che lì ci aspetta da tempo in memoria. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Allora, io sottolineo che sposo in pieno quello che scrive Fra al 349-238-6666. Viva il tifo italiano, ruspante un po' tamarro, con le maglie di Lecce, Livorno, di tante squadre. Le curve composte da soldatini monocolor mi fanno tristezza. Stefano, a te. No, non sono assolutamente d'accordo. Io sposo in pieno la tesi di Conte. La nazionale ritengo che sia uno dei momenti in cui l'Italia si unisce per lo stesso obiettivo. E quindi io sono assolutamente dell'avviso che Conte abbia ragione. Un piccolo aneddoto di quello che succede nella mia famiglia. Sì. Io, mia moglie Elena, mio figlio Filippo, quando c'è la nazionale, gli europei piuttosto che il mondiale, indossiamo la maglietta e durante l'inno nazionale ci alziamo in piedi, lo cantiamo tutti insieme e a tutti e tre ci vengono dei grandi brividi, quindi ritengo che siano momenti assolutamente... Sì, ma l'inno hai ragione, l'inno è parte costitutiva del sentire... Ma si può fare un piccolo, ma neanche sforzo, provare il piacere per una volta tanto di dimenticarsi che io per esempio sono nato a Roma nel quartiere Trieste e quindi sono di Roma Nord, ma mi sento parte di una collettività. L'Italia è un paese sicuramente lungo, sicuramente attraversato da popolazioni molto diverse e fortunatamente anche la nostra grande ricchezza, è chiaro che esistono diversità enormi da ogni punto di vista, no? Fra nord e sud, tra campanili, è il paese dei campanili, un paese che fino al 1870 è stato diviso, per carità, ma ripeto, è un fatto anche di ricchezza, il fatto che ci siano le ricette che cambiano da 5 km a 5 km o le rivalità, è bellissimo tutto questo, però secondo me un sentirsi parte di una nazione può essere una cosa molto bella. E quello che diceva prima l'amico di Napoli, ripeto, non facciamo la classifica Napoli, Roma, Torino, chi è più bistrattata, però è un dato di fatto. È un dato di fatto che molto spesso c'è un razzismo strisciante, un campanilismo invadente. Questo secondo me è giusto sottolinearlo e potremmo star meglio secondo me senza questo genere di cose. Poi alla fine le persone che vanno a Napoli stanno benissimo, le persone che vanno al nord stanno benissimo, cioè l'abitudine a conoscerti, a sentirti parte di una nazione, secondo me è molto bella. E io quando vedo quei muri rossi, arancioni, gialli, non penso che quelli siano dei soldati sfigati, penso che siano delle persone che si sentono innamorate del proprio paese. E io, siccome provo lo stesso sentimento per l'Italia, mi metto la maglietta azzurra. Guarda, un altro amico, la maglia azzurra l'ho messa soltanto nell'82 per la mitica Italia di Berzot. Questo è Gianni da Villarica. Poi un amico scrive 349-238-6666, molto prosaicamente, la maglia ufficiale costa 90 euro, quindi si può tifare Italia solo che amore. Non credo che Conte e Talecchi abbiano voluto, ripeto, abbiano voluto fare del marketing, no, o del merchandising. Non l'abbiamo detto, eh. Va bene una qualunque t-shirt da 5 euro di quel colore, eventualmente. Ah, voi mettetela. Dario da Monza, Dario. Sì, buonasera. Eccoci. Vi stavo ascoltando e mi è venuto il dubbio che vi state concentrando sul concetto di retorica, sul concetto di patriottismo. Secondo me qui non è il problema. Il problema è che il calciatore, quando è in campo, rende di più se davanti ai propri tifosi, rende di più quando gioca in casa e banalmente vedersi circondato da tifosi dell'altra squadra lo fa rendere di meno. Se non volete farlo per patriottismo, perlomeno la maglia dell'Italia, fatelo per convenienza. Da un punto di vista sportivo, fatelo per convenienza. Se non per amore, facciamolo per il denaro, certo, del risultato. Guarda, c'è un amico, Nicola, che scrive: ero a Lione, pochissimi italiani, una marea di belgi, e le poche maglie azzurre per metà erano di stranieri con parenti di origine italiana. Cioè, questo senso di appartenenza che si sente più da fuori. C'è un altro amico invece che scrive: Pier, fateci caso, gli italiani sono gli unici a scrivere sulla bandiera il nome della città di provenienza. Sì, ma infatti, ma io lo dico, guardate, ribadisco, c'è la sintesi del nostro essere italiani, ma nel bene e nel male. Se telefono a Barisoni vi dirà che abbiamo continui esempi di piccole e medie aziende italiane fatte da persone geniali che fanno cose pazzesche, che esportano in tutto il mondo. E che poi però quando c'è da fare squadra, quando c'è da diventare un distretto industriale che lavora di squadra tutti insieme, accantonando per un attimo il singolo interesse appunto del singolo imprenditore, fa un po' più fatica. Adesso io sto vedendo su Facebook una foto del mio amico Salvatore Giglio, fotografo bravissimo che sta seguendo la nazionale, c'è una foto di De Rossi circondato da tutti gialli, ovviamente è girato dalla parte della curva degli svedesi. Il senso è questo qui. Se il calcio è una metafora della vita, se io devo consigliare una cosa al mio paese, sommessamente dico che se noi sentissimo un pochino di più questo senso del fatto che siamo tutti una stessa squadra, nelle diversità, perché è ovvio che il carattere di uno che è nato a Bolzano può essere diverso dal carattere di uno che è nato a Castellammare di Stabia, però è esattamente la bellezza del nostro paese il fatto che c'è Bolzano e che c'è Castellammare di Stabia. E sto generalizzando e banalizzando io per primo. Se sentiamo la fierezza di qualcosa che ci unisce, secondo me non ci fa male. Questa è la mia idea. Poi è una cosa che uno o la sente o non la sente. Io non sì, è sì. che cioè, tanto diciamo un amico a casa, noi non stiamo mica facendo, almeno io non sto mica facendo il tifo per dire mettete la maglietta verde, ad esempio, non stiamo facendo politica. No, cioè, stiamo discutendo siamo alto, ben lontani stiamo anche dal andando fare, alto. Dal Aspetta, fare politica. Simon da Bologna, dai che lo facciamo prima del traffico. Simon. Sì, ciao a tutti. Una considerazione, sì. Appunto mi ricollegavo a queste ultime parole. Io fino al 2010 ho seguito la nazionale anche in giro un po' per il mondo, no? Anche in Sudafrica o comunque sì. Anche nel 2006 a Berlino. E poi naturalmente, cioè, dopo le ultime delusioni ho lasciato un po' scemare la cosa, tanto che la mia maglietta della nazionale è tanto, diciamo, conservata con tutti i crismi. L'ho scambiata con un mio amico del Paraguay, il quale mi diede la maglietta del Nacional di Assunzione. Ecco, e adesso però con queste ultime partite... E adesso devi andare a recuperare la tua maglietta dal tuo amico del Nacional no, di Assunzione. No, che magari chiede conguaglio. No, dicevi... Gliela lascerò, anche perché è stato uno scambio di cuore, quindi per me è stata una grandissima cosa. Però adesso che sto andando in aeroporto per poi... recarmi per lavoro all'estero, penso che una delle prime cose che farò è comprarmi una maglietta della nazionale, insomma. La porterò in giro con me per la prossima settimana e magari anche durante le prossime due partite. Pieno d'orgoglio, bravo Simone. Sì, bravo, bello, convinto, deciso. Però la maglietta posso dire una cosa, anche si vince... dopo la delusione, lo scambio con la maglietta della squadra paraguayana. O del Nazionale Assunzione, non lo so, Pier, tu l'avresti mai scambiata? Vabbè, ma questo fa parte della... Io credo che appunto... Tu dici il fixing nel 2010, consentiva. Abbiamo vissuto e non ti nascondo io per primo che ci sono state nazionali che mi sono state più simpatiche, che ho seguito di più, e altre che ho sentito di meno. Però io credo che nel momento nel quale ci sono queste grandi manifestazioni, ti metti un secondo a pensare... sull'appartenenza a questo pezzo di mondo e a questa comunità di persone che con tutti i difetti sono una marea che ci portiamo dietro, però siamo noi, penso che sia questo, che sia esattamente questo. Non è che gli svedesi vincono tutti gli anni gli europei mondiali o i danesi vincono gli europei mondiali, eppure li vedi lì e ti ripeto, non mi sembrano soldati in un senso deteriore, mi sembrano persone che esprimono, che non hanno paura di esprimere la propria identità, il proprio senso di appartenenza. E sì, poi la Svezia perde lo stesso, con il muro giallo perde lo stesso, il Belgio col muro rosso perde lo stesso. Io sono un po' cinico su questa cosa. Che una vinca e una perda o ci sia la possibilità del pareggio è abbastanza normale, a prescindere. C'è il traffico, c'è un amico che scrive: non tifo più Italia dall'82 addirittura, ma che esagerazione, c'è stato in mezzo anche il 2006, amico, dai, traffico, torniamo subito. E contro chi vuol giocare adesso anche lei non fa i conti, l'ha imparata la lezione? No, adesso giochiamo con, credo che farà dei turnover la prossima partita. No, ma dicevo, contro chi? Quello che manda, come dicono i francesi, grâce à Dieu. Tutti convocati. Tutti convocati. Olson, che però è pericoloso con i suoi cross. Eccolo il tentativo. Il pallone per Ibrahimovic che sbaglia un gol clamoroso. Errore clamoroso di Ibrahimovic. Era fuori gioco, Era fuori gioco. Ha guardato l'assistente. Però mi sono... Vediamo. Sono morto. Cristo come invidio quelli che non sbagliano mai. Io non so fare a meno di quelli che non sbagliano mai. Ronaldo contro Almer. Ronaldo anche per la storia. Piscianizzoli, la rincorsa. Non è serata, l'abbiamo detto, ha sbagliato dei gol facili, questa sera ha sbagliato pure il rigore, ma cosa non gli vuoi serata, dire? Non è serata, non è europeo per Ronaldo fino a questo momento. Non è un europeo per tante leggende, vero, presunte. Sì, questo è un dato, abbiamo un dato detto interessante. Ibra e Ronaldo. Pier, tu che idea ti sei fatto? È l'europeo dei bomber disinnescati, Pierluigi, dei grandi attaccanti disinnescati. Ibra... Ronaldo, ma anche Lewandowski che non ha ancora segnato. Su Ibra, quello che Capuano ha detto al 70° minuto di Italia-Svezia che ha rischiato di creare una catastrofe nucleare, sì. Adesso lo possiamo dire un pochino più a cuor leggero, cioè io un era tutto previsto. Una squadra che in 160 minuti non aveva tirato ancora in porta e aveva segnato su cross, sì. Deviato da un difensore, insomma. No, ma guarda, no. Ibra che tu sai, perché insomma noi siamo 3 anni che ci cerchiamo tutti i giorni, io lo amo alla follia, e anche Ronaldo, cioè sono proprio giocatori che mi piacciono come personaggi, come calciatori in maniera incredibile. Su Ibra c'è un c'è una piccola via che mi si è accesa nella testa, che ovviamente verificheremo fra sei mesi o fra un anno, che forse è iniziata una lenta discesa rispetto a quello che è stato Ibra per 15 anni in maniera incredibile, perché comunque l'età comincia a sentirsi. Ovviamente vedremo, ci stupirà magari già dalla prossima partita, io me lo auguro perché io sono un fan di Ibra, quindi. Però nel finale di questa stagione e in qualche uscita importante mi sembra che non sia stato l'Ibra che siamo abituati a conoscere. Poi c'è la vecchia storia di Ibra che è meno decisivo nelle partite importanti, che secondo me vale fino a un certo punto, perché ci sono state anche partite importanti nelle quali Ibra è stato decisivo. Penso allo scudetto dell'Inter vinto a Parma, dove si alza dalla panchina. Quella non era Champions League, ma era una partita che pesava come un match di Champions League per l'importanza che aveva. Quindi secondo me non è vero in assoluto, non è un tacchino freddo Ibra, non è un giocatore che fai difficoltà. È solo un giocatore che questo europeo sta oggettivamente rendendo poco, e non per la prima volta forse per colpa dei Nanetti che è intorno, sì, va bene, che sono una squadra mediocre, i Nanetti non lo aiutano, non lo aiutano, però Ibrahimovic ci ha abituati spesso a fare da solo, no? Comunque a crearsi delle opportunità da solo. In questo europeo non ha tirato in porta mai, e questo è un dato onestamente oggettivo e onestamente pazzesco. Però ripeto, è in buona compagnia, perché Cristiano Ronaldo ancora secco, Lewandowski ancora secco, erano loro nell'iconografia della vigilia i grandi superstar dell'attacco, e sono onestamente stanno deludendo. Quindi questo è quanto. Carlo da Milano, Carlo. Buonasera. Eccoci. Posso andare in controtendenza? Puoi andare dove vuoi, dici. Perfetto. L'ottimo Pardo ha detto una cosa fondamentale, una cosa che o si sente o non si sente. Sì. Io odio in generale gli appelli. Gli appelli vengono fatti quando praticamente la gente non se lo sente. Secondo me, se la gente non se lo sente, amen. Seconda cosa, propongo di dare la patente di tifoso azzurro solo a quei tifosi che sportivamente per tutto l'anno non insultano beceramente i giocatori che poi vanno in nazionale. E sappiamo benissimo che soprattutto i componenti di una squadra maggioritaria subiscono, io lo so juventino, sono milanista, sì. Voglio dire, i juventini in ogni campo subiscono contumelie di ogni genere. Sì, poi tu dici arriva all'europeo, arriva al mondiale, ecco. Invece vanno benissimo fratelli, tutti. No? Terza provocazione, voi siete diciamo fra i meno responsabili. Io in questi giorni sto leggendo delle cose retoriche, cioè mancava tirassero fuori i figli dei minatori di Marseille. Cioè, nel senso che sembra che ogni volta che battiamo una nazionale facciamo un'impresa che diciamo così dà possibilità ai figli e ai nipoti degli emigranti, sì, di guardare, che dà un senso di riscatto che magari in alcuni momenti io ad esempio credo prima negli anni 70 sì, negli anni ma 70, io ad esempio posso immaginare che italiani che vanno all'estero ogni anno No, io posso immaginare ad esempio che pochissimi italiani presenti a Dortmund, Pierre, nel 2006 per la semifinale Italia-Germania siano usciti con un cuore grosso così di emozioni, di senso, insomma, di orgoglio, di appartenenza, però che ci sia un pizzico di retorica. No, ma le due cose non sono in contraddizione, cioè è evidente che la fortuna di un popolo o di una città o di un si misura da quello che fanno gli abitanti, i cittadini dalla mattina alla sera, producendo, impegnandosi, lavorando, mettendo, realizzandosi come persone, come famiglie, come individui, e quindi poi creando una condizione di benessere, di felicità condivisa. Quindi questo è il benessere di una nazione e non passa dal risultato di una nazionale. Detto questo, ci sono siccome la nazionale è anche qualcosa di simbolico, ci sono delle circostanze particolari, gli europei, i mondiali sono sicuramente parte di tutto questo, che danno a un popolo possono dare un'emozione. La Grecia nel 2004 vince gli europei e cioè, nonostante va in default, questo è l'esempio più classico, no? O più tradizionale, però sicuramente insomma se tu fai una chiacchierata con quelle persone che magari vivono sono la seconda generazione, vivono loro la sentono certamente di più, la sentono certamente di più, è bello, quando ci ho parlato mi ha emozionato sentirti, no? Che perché credo che sia una cosa bella. Intanto, sarei contrario alle patenti, stiamo sempre parlando di campanili. L'ascoltatore diceva: dare la patente di tifoso solo a quelli che non insultano gli avversari. E poi, ma state sereni, che anche gli svedesi insultano gli altri svedesi. Insultano gli altri svedesi e poi fanno il tifo per la Svezia. È un normale gioco delle parti. Campanili. Però posso dirti un po' meno, cioè, ci sono, in questo siamo. In Spagna si odiano, Madrid e Barcellona si odiano e fanno anche fatica a stare insieme pure nel mese del mondiale. In Germania, intanto, per dirti, mi ricordo una ricerca ai tempi della finale Bayern-Inter, nella quale veniva fuori che più del 70% dei tedeschi comunque tifavano Bayern, eppure il Bayern è la squadra che dovrebbe essere più odiata in Germania da quelli che non sono tifosi del Bayern stesso. Cioè, c'è nazione e nazione da questo punto di vista. Noi siamo in generale e in assoluto un paese che si divide continuamente, si divide in campanili, ma ripeto, è anche il nostro bello, perché ognuno, appunto, perché se noi ci dobbiamo mettere una maglietta azzurra per andare allo stadio, siamo in tre e ci mettiamo tre magliette diverse. Io metto quella con la mi alzo il bavero così, tipo Totti, quell'altro si mette la maniche lunga, oppure la bandiera e ci scrivi sul nome della città, come diceva un amico. A proposito degli amici che scrivono da casa, Duccio, tifoso della Lazio, chiede: fino a quando andremo in onda la domenica? Sempre. Quindi mettetevi sereni, la domenica dalle 17 alle 19 non ci fermiamo. Gli europei cominciano le Olimpiadi, quindi senza soluzione di continuità. Poi finiscono le Olimpiadi e comincia il campionato. Quindi noi siamo qui, non ci fermiamo mai, né dal lunedì al venerdì e nemmeno la domenica. Nicolas dalla provincia di Napoli. Nicolas. Buonasera a tutti e un saluto particolare a Pierluigi, che sposo appieno la sua tesi sul discorso, retorica e via dicendo. Tengo presente sempre una cosa, che noi siamo, io chiamo dalla provincia di Napoli, io sono italo-napolitano, purtroppo questa differenza c'è. Non ci dimentichiamo una cosa, che nonostante che Conte sia un meridionale, che è il primo allenatore meridionale della storia della nazionale italiana, o lo senti o non lo senti di fare Italia. Questo è un dato di fatto che non bisogna assolutamente mettere da parte. Esiste e c'è e ci sarà sempre, perché l'Italia è stata sempre così. Hai ragione, Nicolas, è un po' quello che siamo, è un po' quello che siamo e che ci ha anche portato fortuna in passato. Oh, prima di salutarti, Pier, io lo so che da una settimana tu sei lì che aspetti questa cosa. Allora, la nuova meravigliosa rubrica di tutti i convocati weekend per il mese degli europei, c'è l'angolo del competente. Vai. L'angolo del competente. Oggi, Pier, abbiamo imbarcato un protagonista di cui parlavamo anche prima, che probabilmente perché ha capito che sta per essere eliminato, ha deciso di... ha detto, insomma, io vorrei fare un po' io il commento del competente questa domenica, ed è, ovviamente stiamo parlando del nostro Zlatan. Che saluto, ciao Zlatan. Io non sento. Sì, il grande Zlatan Ibrahimovic. Possiamo sistemare il collegamento? Non sento. The legend, la leggenda. Zlatan, così, ci sei? Così sì. Va un po' con meglio. Ok. Sì, no, ok, però okay. Siete che fra una settimana siete a casa eliminati, di fatto, insomma. Il più grande giocatore della storia del calcio, Zlatan. Il più grande eliminato della storia del calcio. Ho sentito una voce giusta, invece tu, Capuano, cazzo dici? Tu sei giornalista, devi sapere tutto. Allora faccio io commento tecnico compardo a Radio 24, va bene? Va bene, ok. Però partendo che siete quasi a casa, partiamo da qui e facciamo già l'angolo con, del già con un piede sulla scaletta dell'aereo. Esatto. Vai, dai. Cazzo dito. Noi siamo in corsa per secondo posto, ok? Dopo mio gol da legend contro l'Irlanda. Sì, no, era un cross che ha fatto autogol. Sì. Però sei stato bravo. Sì, bravo. No, insomma, era un cross. Non sento. Sì. No, senti benissimo, è stato un autogol. Non sento, chiudo telefono. No, è stato un gol da leggenda, è stato un gol da leggenda. È tornata la linea, sento molto bene. Sì, però... Tutto geniale. Okay. Però adesso approfittiamo di Zlatan. Perché non avete fatto neanche un tiro in porta contro l'Italia? Tu poi hai sbagliato a porta vuota. Non sento. Ancora? Io ho sbagliato gol. Sì. Tu fai troppa televisione. Sì. I am Ibra, the legend. Who dick are you? Sì. Ok. Tu pensi che posso sbagliare gol? L'hai fatto. Io ho tirato in tribuna perché guardalinea ha sbagliato e sbandierato fuori sì. gioco. No, era fuori allora, gioco, comunque ti è anche andata allora bene. Allora io non ho sbagliato, no, io ho tirato pallone Ibra, a tifosi. Sì, a tifosi, va okay. bene. Riusciamo a partire dal fatto che siete quasi eliminati? Questo cazzo di telefono non sento, linee italiane non sento. No, allora, la leggenda Ibrahimo cioè adesso ci farà il dai. Molto bene, molto sento bene. Capuano, tu hai bisogno del mio commento sì. tecnico. Sì, però siamo okay. quasi in pubblicità, tu Zlatan. Non capito, me non frega un cazzo di niente no, di pubblicità. Non si può dire, non si può dire. Non sì. posso dire pubblicità, va no, bene. No. Italia ha vinto, ma io potevo mandare il maiale in ospedale. No. Senza maiale voi andate male. Okay? Ciao Zlatan, facciamo che ti prepari meglio per settimana prossima. Non sento, sì. io ciao, non sento. Ciao Pier, ciao anche non a te. Non sento niente. Ciao, non sento. Ciao, ciao Pardo. Inizio a stufarmi di sentire delle stronzate da pseudo intenditori di calcio. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Mr. Worldwide. Becky G. Let's set the world on fire. Copa America. Con la mano pa' arriba, dale. Dietro il cross in mezzo, il colpo di testa di Dempsey, sempre Dempsey al 22esimo, l'ha sbloccata lui in casa sua, Stati Uniti avanti, Dempsey. Cueva alle stelle, la Colombia è in semifinale di Copa America, elimina il Perù per gli errori dal dischetto di Cueva e di Trauco. Finisce così la maledizione di Pekerman che era sempre uscito ai quarti. Palla ancora buona e non ci credo, ha segnato ancora Edu Vargas, poker. Ancora in aria Messi. Eccolo il gol che riscrive la storia. Adesso è a braccetto con Batigol a 54 reti in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della nazionale argentina. Poi daremo soddisfazione anche all'amico che continua a scrivere da casa 349-238-6666, ma noi non scappiamo, ricordando che tu hai detto che vedevi male la Spagna. 6 punti, 4 gol fatti, 0 subiti. Sì, allora poi gli diamo soddisfazione. Poi gli diamo perché soddisfazione, a parte che i pronostici si fanno per essere smentiti. Ma questo è chiaro. Io ho detto che l'Ucraina sarebbe arrivata agli ottavi ed è la prima eliminata ufficialmente. Sì, sì. No, poi passiamo a parlare della Spagna che continua a convincermi poco, perché la prima partita l'ha vinta... grazie al gol di Piqué all'ultimo istante. È un'invenzione di Iniesta. Nella seconda gara è stata un po' più convincente, però continua a sembrarmi una squadra che è nella terra di mezzo, cioè tra quella grande che fu e quella che probabilmente tornerà ad essere. E secondo me però va in finale a Parigi, complice anche quel tabellone. Noi invece siamo reduci dalla notte dei record in Copa America. Saluto Stefano Borghi. Ciao Stefano. Ciao. Ciao, ben ritrovati. Tra l'altro mi iscrivo al vostro partito perché io pensavo a un Messico in finale, ne ha presi 7 stanotte, per cui siamo tutti dalla stessa parte. Sì. Ci è andato vicino. Un bel 7 schiaffoni. Sì. Con 4 gol di Edu Vargas. Sì. Che sì. A Napoli, oggetto misterioso, totale, prestato in giro per il mondo, quando mette la maglietta del Cile si trasforma, diventa qualcosa di diverso. Capita, no, sì, ma soprattutto capita a questi cileni, perché è sempre più un miracolo questa generazione, questa squadra, perché dopo l'addio di Sampaoli si pensava a un minimo di ridimensionamento e in effetti le prime due partite non erano state un granché. Invece adesso stanotte si è rivisto il Cile capace di vincere la Coppa solo un anno fa. trascinato tra l'altro da un Vidal che rimane l'unica costante, forse addirittura la migliore individualità di questa Copa America. Sì, Cile che credo, però lo facciamo un pronostico così qualcuno se lo segna e magari fra una settimana ci chiama. Potrebbe essere in realtà l'ultimo e unico ostacolo tra Messi e il coronamento del sogno di alzare un trofeo con la maglia dell'Argentina. Visto come si sono messe le semifinali, Stati Uniti-Argentina, Colombia-Cile, non c'è il Messico, non c'è l'Uruguay, ma lo sappiamo, insomma. Beh, non c'è il Brasile, non c'è l'Uruguay, lo sappiamo ormai da tempo in memoria. Si rischia di vedere il replay di un anno fa. Guarda, io nonostante i fatti appunto mi smentiscano, continuo a pensare che l'alternativa all'Argentina sia la Colombia più che il Cile, anche perché Vidal non giocherà la semifinale, sarà squalificato. È vero che anche l'Argentina ha un problema perché non ci sarà Gaitán, giocatore fondamentale, anche lui squalificato, però io credo che questa Colombia sia la seconda forza, detto che se tutto va come deve andare, anche se in Sud America quasi mai succede, l'Argentina vince e rompe ogni maledizione. La Colombia, con queste nuove visioni di Pekerman, anche con queste nuove chiamate, fatta fuori la vecchia guardia, lanciati i giovani che stanno facendo molto bene anche a livello di club sudamericani, in particolare con l'Atletico Nacional di Medellin che è in semifinale di Libertadores, è una squadra che mi piace. James sta andando molto bene, ha tante alternative, è una squadra che ha un gioco profondo codificato ed è una squadra che secondo me ha fatto anche i conti giusti, mettendosi dalla parte giusta del tabellone con la sconfitta all'ultima giornata della fase a gironi, risparmiandosi circa 1500, quasi 2000 chilometri di viaggi. Per cui oggi, se devo puntare, se devo fare un altro pronostico, pronto ad essere smentito fra qualche giorno, penso a una finale Argentina-Colombia. Quindi in Sud America i conti si fanno durante la Copa America. No, assolutamente. Non è un tabù. Diciamo due cose su Messi. Questa notte gol numero 54 con la maglia dell'Argentina, raggiunto Batistuta che, facciamo un altro pronostico, quasi certamente verrà superato, ma questo credo questo è nei fatti, questa ce la facciamo anche noi. E quanto pesa questa cosa? Perché poi Messi ha un rapporto, insomma, che conosciamo, tutto particolare con l'Argentina, con quella maglia, col ricordo di Maradona. Guarda, pesa tantissimo, come pesa tantissimo questa Copa America nella carriera di Messi e nella storia di Messi. È partito con dei problemi perché le prime due gare le ha iniziate dalla panchina, è entrato ma ha subito messo del suo. Poi una tripletta, poi un'altra grande prestazione, il gol del record e anche una gran palla per l'1-0 di Higuain. Io vedo un Messi affamatissimo in questa manifestazione, voglioso finalmente regalare un trofeo alla sua gente e anche di togliersi di dosso l'annomia di vincente solo con il Barcellona. Tra l'altro, sensazione mia, però insomma, le ho vissute le partite, io ho avuto l'impressione che Messi sia preparato a questa Coppa America anche nell'ultimo mese di stagione con il Barcellona. Poi ha dovuto fare un minimo di straordinari perché le cose si erano complicate con quelle tre sconfitte consecutive e il Barça ha dovuto spingere fino alla fine. Però anche il cambio di ruolo che ha avuto nell'ultimo mese, nelle ultime 5 settimane col Barça, ha cominciato a giocare più indietro, ha cominciato a fare l'assist man per Suarez, ha cominciato anche a fare qualche chilometro in meno, a prendere qualche botta in meno, secondo me proprio perché il suo grande obiettivo per quest'estate era vincere finalmente con l'Argentina e mi sembra che il tempo possa essere arrivato. Si è anche fatto crescere la mano, Proviamo a ribaltare il discorso invece, se non riuscisse a vincerla stavolta, il prossimo sarà presumibilmente il suo ultimo mondiale, il gorilla diventerebbe sempre più grande, il gorillone sulla spalla di Messi diventerebbe sempre più grande, no? Non ce la dovesse fare stavolta. Eh sì, anche perché l'Argentina è veramente l'unica squadra che fin qui non ha sbagliato un colpo, è stata perfetta fin dalla prima partita, anche per merito del Tata Martino, anche per lui è una grossa occasione di riscatto, perché in Europa forse non è stato compreso, è arrivato in un momento anche un po' particolare del Barcellona, ma c'è tanto del suo in questa Argentina che domina, ha ingannato un po' tutti, almeno gli osservatori più superficiali, tutti pensavano a un 4-3-3, invece lui già da qualche tempo stava preparando questo 4-2-3-1, 4-4-2, con un ruolo per Messi alle spalle della punta, ma con la possibilità di uscire largo, con la volontà di puntare su alcuni giocatori di base locale o quantomeno che abbiano conservato lo spirito del calcio argentino, con Mascherano, con Banega in cabina di regia, giocatore che non vedo l'ora di vedere in Italia perché secondo me è stato un grandioso acquisto fatto tra l'altro a parametro zero e con molto anticipo rispetto alle bagarre del mercato, con la scelta giustissima di puntare su Higuaín invece che su Agüero come nove principale, perché l'anno scorso ricordate benissimo, Higuaín sbagliò un rigore all'ultima giornata di Serie A e abbiamo visto come si è fatto perdonare quest'anno. L'anno scorso Higuaín sbagliò un rigore decisivo anche nella finale di Copa America, e quindi la voglia del Pipita di chiudere il cerchio è un'altra arma che Martino ha intravisto molto bene. Per cui fin qui veramente tutto perfetto, persino Romero si è messo a fare delle parate importanti. Sì, però, che ci aveva già fatto vedere anche in realtà due anni fa al Mondiale, Romero portiere, sì, forse che è stato trattato male in Italia, intermittente, però credo sottovalutato per la traiettoria che ha fatto nel nostro campionato. Prima di salutare Stefano Borghi, citava prima Higuaín, doppietta, Higuaín che ha abbattuto il muro delle 40 marcature stagionali. Ha detto a Napoli devono stare tranquilli, futuro ci penso dopo la Coppa America. Io non so che cosa si respira lì. Adesso sta sicuramente pensando alla Coppa America, sì, che è anche un meraviglioso alibi nelle prime fasi di mercato. Però glielo si può anche concedere, vista l'importanza del momento della manifestazione. Io ho l'impressione che davvero adesso, per quanto riguarda il mercato, ci siano tante cose ovviamente imbastite, ma una fase di stallo generale, perché praticamente i 900 giocatori più importanti del mondo sono impegnati. E poi vedremo. E sarà il solito gioco di incastri. Dipende da dove cade la prima tessera del domino e poi si sistema tutto il cerchio. Io ti posso dare la mia sensazione, anche da quella di uno che non fa il mercato. Credo che siano leggermente di più al momento le possibilità che Higuaín rimanga a Napoli rispetto a quelle che lo potrebbero vedere lontano. Però non siamo molto distanti dal 50-50. Un po' come Hamsik, per la gioia dei tifosi del Napoli. Sono giocatori, trattative, prezzi, cifre che non risolvi in una notte all'ultimo momento, eccetera. Quindi va bene, Higuaín starà pensando alla Coppa America, ci sarà chi pensa al suo futuro già in questi giorni di Coppa America, perché sono giocatori troppo importanti per essere spostati all'ultimo giorno di mercato con ritardo. Dunque qualche trattativa ci sarà. Qualcosa c'è. Grazie Stefano. Grazie a voi, sempre un piacere. Un abbraccio, alla prossima. Ciao Stefano. Grazie Stefano Borghi, collega di Fox Sport. Traffico, poi abbiamo l'ultimo blocco, e a proposito di pronostici, preparate i vostri, perché questa notte c'è gara 7 delle finali NBA. C'è qualcuno che ci chiama sul numero WhatsApp 800 24 00 24. Non serve chiamare, telefonare al numero di WhatsApp. Traffico. Spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Curry the drive, throws it up, banks it in. Just his third field goal. Here comes Curry for three. First lead for Golden State. James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Oh, he throws it down. Because this shit ain't really past the statue. Curry to Iguodala. Shot clock at 7. Curry face, puts up a 3. Bang! Stephen Curry from downtown. It's a 10-point game. James steps back. He tries another 3. That's good. LeBron James from downtown. James Thompson running and finishing. That's a guy that wants to see a game 7. Beautiful basketball. Yeah, great teammates. Even in game 7, we still have to clean up some things, but we gave it our all tonight. We were able to come away with the victory. Sono ore 2, ora italiana. L'America si ferma. Gara 7 delle finali NBA a Oakland. Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers, ovvero Steph Curry contro LeBron James, ovvero il migliore di tutta la stagione. Curry contro il migliore di questa serie di finali, LeBron. Due dei migliori di sempre. Caro Capuano, si fa mattina. Questa notte si passerà in bianco, almeno dalle mie parti, per vedere questa gara 7. Siamo, se non ricordo male, alla 19ª edizione di una gara 7 per il titolo. Serie molto equilibrata. Io continuo a pensare che LeBron farà il colpo, che LeBron porterà a casa questo anello. Colpo che manca da in trasferta, manca da 38 anni. Grazie, ciao Simone Sandri. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Tu cosa pensi? Come la vedi? Beh, ho cambiato opinione diverse volte durante questa serie. All'inizio della serie avevo detto Cleveland a 6-7. Dopo le prime due partite avevo detto che se Cleveland avesse vinto una faceva un mezzo miracolo. Mm-hmm. E adesso invece LeBron ha cambiato marcia nelle ultime due. In questo momento vedo Cleveland favorita perché ha sicuramente entusiasmo, l'inerzia è tutta da parte di Cleveland in questo momento. È vero che si gioca alla Oracle, però LeBron in questo momento è assolutamente incontenibile, ha fatto 41 punti nelle ultime due e secondo me alla fine la vince lui. Sì, quando gioca così è come ha giocato in gara 5 e gara 6, è semplicemente il numero uno. C'è anche un po' il sospetto che Golden State, a proposito di statistiche sul 3-1, statistiche dicevano sul 3-1 in finale nessuno quasi è mai riuscito a risalire, l'abbia un po' considerata chiusa. Forse sì, forse l'hanno un po' preso sotto gamba, anche se io non ci credo tanto, penso che abbia pesato tantissimo l'assenza di Green in gara 5, poi LeBron ha deciso veramente di chiamare marcia, però sia LeBron che Irving, difendere sul pick and roll con Green è un conto, senza Green è un altro, e hanno giocato la partita che dovevano giocare, che era una partita eccezionale alla Oracle. E dall'altra parte a gara 6 invece sono stati abbastanza deludenti, secondo me, perché era la partita invece che dovevano mostrare molto più carattere, per cui adesso diventa tutto, si gioca una stagione in una partita sola ed è fantastico perché è veramente la partita della storia da tutti i punti di vista, perché da un lato sarebbe un successo storico per Cleveland, sarebbe la prima volta che una squadra recupera in finale, recupera da un 1-3. Dall'altra parte sarebbe la conclusione della stagione più grande di sempre, parliamo di regular season, che però consacrerebbe la vittoria di Golden State, li consacrerebbe e almeno metterebbe nella conversazione di più grande squadra di sempre, perché comunque se vinci 73 in regular season e poi vinci il titolo, devi comunque essere almeno nella conversazione, secondo me. Sì, giusto nella conversazione, perché secondo me, Simone, i Bulls di Michael Jordan, Rodman con Pippen, compagnia bella, i Celtics, Los Angeles Lakers di Magic Johnson, eccetera, i Celtics di Bill Russell, squadra più forte di sempre, diciamo che è un momento storico molto particolare per l'NBA. C'è da dire anche che Steph Curry è arrivato a queste finali non in perfette condizioni, non è il miglior Steph Curry della stagione, il cast di supporto lo aiuta a corrente alternata e dunque siamo arrivati a questa situazione, per cui sai, se prendi una rimonta da 1-3 fino a gara 7, secondo me il contraccolpo lo senti. Di sicuro, e poi se vediamo anche il nervosismo dopo gara 6, le accuse agli arbitri, i famosi tweet della moglie di Curry, sono sicuramente dei segnali non certo positivi per Golden State, che veramente stava navigando a vele spiegate in queste finals, perché sembrava veramente che gara 3 fosse stato così un calo di tensione, i Cavaliers hanno dominato, ma sembrava li avevano ovviamente rimessa nella direzione giusta. In gara 4 sembrava una fine quasi scontata, e sentiamo i commenti di un po' tutti gli addetti ai lavori, dagli ESPN, da tutti gli addetti ai lavori più americani, davano già per scontato. Si parlava già addirittura del post Big 3, del trade di Kevin Love, cosa sarebbe successo appena finite le finali. E invece adesso tutto torna tutto in discussione, merito soprattutto, però diciamo la verità, di un LeBron che, come hai detto giustamente voi, quando gioca così, quando incomincia a prendere fiducia col tiro da media distanza, che diventa assolutamente imbarcante. Se LeBron gioca così, secondo me non c'è possibilità che Golden State possa vincere. Se LeBron gioca così è un grande if, è un grande se, però se LeBron gioca come ha giocato nelle ultime due, diventa difficile battere i Cavaliers. Sì, vediamo, certo, perché sì, poi in gara 7, certo, la palla pesa anche, credo, tra le mani di LeBron James. Abbiamo letto delle cifre dei prezzi dei biglietti, qualcosa di inimmaginabile. Vabbè, per noi mortali che discutiamo che sui 90 euro della maglietta ufficiale azzurra. Come sta vivendo gli europei? Come vivete gli europei, Simone? No, li viviamo abbastanza bene, soprattutto qua nel circo NBA ci sono anche giornalisti un po' da tutto il mondo, per cui vediamo le partite un po' tutti insieme, è abbastanza sorprendente. Un po' l'Italia, avevamo subito un po' gli schermi un po' da tutti all'inizio della competizione, prima della prima partita, e invece poi ci siamo anche un po' rifatti, perché forse la squadra che sta mostrando uno dei calci, forse il miglior calcio in questo europeo per adesso, per cui non dimentichiamoci che negli Stati Uniti c'è anche la Coppa America, per cui ci sono i giocatori, è venuto Neymar a vedere gara 2 con una serie di magliette, aveva tipo 12 magliette, si è portato dietro 12 magliette perché le ha date a tutti i giocatori di Golden State, credo anche qualcuno di Cidra. Per cui allora procurati questo... Simone 12 magliette azzurre da dare a chi vuoi tu. Siamo in chiusura. Ciao Simone, ci sentiamo domani. Domani. Sì, noi ci dobbiamo fermare. Io ringrazio Carlo Genta, Claudio Schiattone in redazione, Paolo Corleone, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati weekend. Torna domenica prossima alle 17 perché non ci fermiamo mai di domenica, a luglio, ad agosto, saremo mai. Sempre qui. Invece domani dopo il GR delle 14 con Carlo Genta e più Luigi Pardo. Ciao! Che spettacolo! Da brividi!